Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Come gol che facevo contro una porta di legno, con le ginocchia sbucciate di esterno gol. Come morire di sete dopo una corsa d'estate, ma non ho più la mia bici da cross. Buongiorno a voi, bei tempi, quando ci sbucciavamo le ginocchia, prendevamo un colpo, ci rialzavamo e la cosa nella maggior parte dei casi finiva lì senza conseguenze. A mano che si cresce diminuiscono le occasioni di sbucciarsi le ginocchia, ma ugualmente questa articolazione può darci qualche problema lavorando, facendo sport o semplicemente dopo una lunga camminata. Può capitare di avvertire un dolorino, di accorgersi che il ginocchio è un po' gonfio, di muoverlo con una certa difficoltà. Allora oggi, cari amici, parliamo di questo, di tutti quei piccoli disturbi che avvertiamo al ginocchio. Attenzione però, intanto che ci pensate, tenete conto che possono essere indicativi per la diagnosi il punto in cui il dolore si manifesta. Qua in studio con me è tornato a trovarci il professor Roberto D'Anchise, primario ortopedico dell'Istituto Scientifico Galeazzi di Milano. Professore, sono molto contenta, buongiorno. Buongiorno a tutti. Anche lei come me ha le ginocchia. Le mie sono perfette. Non se le sbuccia più, ma cura quella degli altri. Può capitare che nella vita di tutti i giorni, anche facendo delle cose molto semplici, quando ci alziamo dopo che siamo stati a lungo seduti oppure camminiamo per un lungo tratto, avvertiamo che insomma il ginocchio cede o non risponde più come una volta. Ma succede anche ai giovani. Certo, certo. Io quando parlo di questa articolazione faccio sempre un po' una premessa. Madre Natura ha fatto questa articolazione che io credo sia tra le più complesse e tra quelle che funzionano meglio nella nostra nel nostro corpo. Però come sempre, quando le cose sono complesse, evidentemente basta anche poco perché qualche cosa dell'ingranaggio si inceppi. Quindi è molto giusto quello che si dice, bisogna fare molta attenzione, nel senso che il piccolo dolorino ce l'abbiamo tutti e quindi bisogna far finta quasi di niente se passa. Io tantissime volte dico ai pazienti che dicono avevo male, ho avuto male per 3 giorni, adesso sto bene, cosa devo fare? Dico niente. Io non mi interessa cosa lei abbia avuto, l'importante è che sia passato, se ritorna ne parliamo. Quindi è vero che ci possono essere problemi, ma è anche vero che molto spesso sono dei problemi banali legati magari a un po' di sovraccarico. Quando il ginocchio scrocchia, cede dopo uno sforzo, lo sentiamo appesantito, quindi? Allora, i rumori sono frequentissimi, ma se non fanno male, mettiamoci dei tappi nelle orecchie e non sentiamoli. Non hanno significato. 800 24 00 24, se volete intervenire, i messaggi come sempre al 349 238 6666. Professor D'Anchise, prima scherzando dicevamo che le sbucciature sono tipiche della gioventù. Possiamo dire però che ogni età ha il suo disturbo. In altre parole, quali sono le categorie di persone più a rischio? Chi ha avuto già dei traumi, chi fa sport in modo esagerato e non adeguato, chi ha un po' di primavere sulle spalle e sulle ginocchia, allora, chi ha chili? Allora, l'età non ha nessun significato. Io vedo alle volte delle ginocchia di ottantenni che sono perfette, veramente, che non hanno nessun consumo. Mentre allora le situazioni di maggior rischio, definiamole così, sono le malformazioni congenite, per così dire. Se uno ha le gambe storte, evidentemente il carico non viene distribuito in maniera uniforme nell'articolazione, quindi in quel caso l'età ha un significato, nel senso che ci può essere un sovraccarico per un certo numero di anni e quindi un iniziale usura della cartilagine. Quindi le gambe storte, che possono essere o le gambe a X o le gambe da cavallerizzo, come ogni tanto qualcuno dice, quindi le tibie vare o le ginocchia valghe, e indubbiamente le attività sportive fatte in maniera eccessiva, in particolare tutte quelle che richiedono salti e corsa, per esempio i maratoneti spesso, cioè chi corre tanto al di là dei maratoneti, evidentemente crea un sovraccarico non previsto per l'articolazione. Nel senso che la nostra articolazione è fatta per vivere una vita normale, se noi la sovraccarichiamo, come in tutte le cose, ci può essere un danno, un'usura nel tempo. Quindi non facciamoci mettere in ginocchio dal ginocchio, giochiamo ad anticipo. In linea con noi abbiamo il professor professor Giuliano Cerulli, è professore ordinario e direttore della scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia all'Università di Perugia e fondatore della Nicholas Foundation, un onlus che fa insegnamento e ricerca. Professore, buongiorno. Buongiorno, e benvenuto. Buongiorno a me, buongiorno a tutti e buongiorno all'amico professor. Ciao Giuliano. Ciao Roberto. Professor Cerulli, il legamento crociato anteriore e il menisco sono i talloni d'Achille delle nostre ginocchia. Cerchiamo allora di capire come e cosa possiamo fare per mantenerli efficienti e ben funzionanti. Perché, ad esempio, iniziamo dal legamento crociato anteriore, questo legamento si usura, si straccia, si logora così frequentemente? Grazie innanzitutto per il quesito. Dunque, innanzitutto è un legamento che si rompe, è difficile che si usuri o si strappi in maniera progressiva. La lesione è dovuta al fatto che questo legamento il più delle volte non è allenato a compiere determinati movimenti. Io dico sempre che noi siamo abituati, ma la natura ci ha fatto in maniera tale che noi siamo in grado di camminare dritti. Quando facciamo dei movimenti tipo zig zag, come sempre nella vita, zig zagare non fa mai bene, e in modo particolare non fa bene al ginocchio, e questo si verifica soprattutto quando questo modo di camminare, che viene effettuato durante le gestualità sportive, i cambiamenti direzionali avvengono in maniera non preparata e il legamento può facilmente rompersi. Però esiste la possibilità di prevenire. Bravo, è qua che la voglio. Che cosa bisogna fare? Dunque, innanzitutto volevo dire questo, che diversi anni fa io e il mio gruppo facemmo degli studi sui cadaveri ed evidenziammo la presenza nel crociato anteriore di relè, cioè di strutture neurologiche che si chiamano propriocettori, i quali servono, questi propriocettori, a controllare il movimento dell'articolazione, a controllare il tono dei muscoli che insistono intorno al ginocchio. E abbiamo visto che con degli esercizi semplicissimi che ognuno di noi e gli atleti in maniera particolare possono fare quotidianamente su delle tavolette cosiddette propriocettive, delle tavolette instabili, esercizi che una persona potrebbe fare in maniera continuativa 5 minuti, 2-3 volte al giorno, possono essere. Quindi mettiamo questa tavoletta, se lavoriamo alla scrivania, sotto il nostro tavolo. No, è opportuno stare in piedi, mettere questa tavoletta peccato. Sotto il piede, sì, peccato, avere il ginocchio in modica flessione e mantenersi in equilibrio, fare una specie di movimento tipo twist. E questo movimento provoca un allenamento continuo di queste strutture. Queste strutture allenate fanno in modo che nel momento in cui il crociato anteriore subisca una elongazione, cioè un allungamento, cosa che si verifica quando si atterra da un salto, quando ci si ferma all'improvviso, si cambia direzione, quindi si zigzagga, si fa movimento zigzag, allora si richiama l'azione muscolare protettiva e si può evitare che il crociato si rompa. Questi studi sono stati confermati poi dall'esperienza clinica, perché circa 15 anni fa abbiamo seguito degli atleti, calciatori, e abbiamo evidenziato che coloro che facevano un programma allenante includente anche questo tipo di esercizio andavano incontro ad una riduzione statisticamente significativa delle rotture del crociato anteriore. Quindi chi non ha questa pedana, professor D'Anchise, può allenarsi ballando il twist. Ma intanto voglio rispondere a Daniele, che mi manda un sms al 349-238-6666 chiedendomi: tenere le gambe accavallate 7-8 ore al giorno può comportare dei danni? Assolutamente no. È chiaro che può dare un po' fastidio, perché l'articolazione rimane fissa in una certa posizione, quindi la muscolatura, per così dire, si adatta a quella posizione, e modificarla può dare un po' dei problemi. Però se non c'è una problematica di base, direi proprio di no. E in questo senso, sempre parlando di alterazioni congenite, qualche volta la rotula, che è quella che viene sollecitata molto quando noi flettiamo le ginocchia, può nascere non perfetta, un pochino spostata. E allora una sollecitazione particolare che crea delle difficoltà, la rotula può dare un po' di dolori. Andiamo al menisco, anche lui ci dà del filo da torcere, parlo al singolare in realtà, professor D'Anchisio, dovrei sono parlare due, al plurale, sì, certo. Perché questo l'abbiamo capito. Se vogliamo 4, 2, 2. Perché i menischi sono dei veri e propri ammortizzatori, sono fatti di cartilagine. Fibrocartilagine. Non è proprio una è un tessuto un po' diverso dalla cartilagine. E noi abbiamo proprio cercato, abbiamo chiesto, realizzato un mini sondaggio, chiamiamolo così, per capire cosa ne sappiamo di questa cartilagine. Cos'è la cartilagine? Ma non so di preciso, probabilmente è un qualcosa che tiene insieme le ossa e ad esempio nel caso del ginocchio, quando si rompe, anche il nostro ginocchio è rotto. Cartilagine è il cuscinetto che c'è tra le ossa, tra le ossa in movimento, tipo nel ginocchio c'è la cartilagine, serve come lubrificante e cuscinetto, tipo nelle anche, nelle spalle, in tutti questi posti. So che ha a che fare con il ginocchio, ma più di tanto non so. Ma secondo me la cartilagine è una specie di tessuto che sta tra le articolazioni e penso che serva per fare in modo che le articolazioni non vengano a contatto tra di loro, non sfreghino. Perché so che se non c'è la cartilagine o se ce n'è poca, le articolazioni poi stridono e fanno male. Però di preciso non so dirtelo. Mi piacciono gli uomini in ginocchio che fanno le dichiarazioni e tornano. Volevo fare una piccola osservazione, quello che si diceva prima. Attenzione a distinguere la cartilagine dal menisco, nel senso che sono cugini, ecco, sì. Per così dire, non sono figli dello stesso padre, ecco. Allora, professor Cerulli, possiamo giocare di prevenzione anche per il nostro menisco, per i nostri menischi? Qual è, ad esempio, cosa fa bene e cosa fa male? Dunque, innanzitutto la cosa che bisognerebbe evitare è una attività che porti ad una prolungata posizione in accovacciamento, in accucciamenti o accucciamenti subcontinui, il peso eccessivo. E poi una cosa che bisogna evitare quando si fa attività ginnica, sì, di tipo riabilitativo o di preparazione, evitare i cosiddetti esercizi a pendolo, che si chiamano in gergo esercizi a catena cinetica chiusa, cioè tutti i movimenti con e senza macchina a pendolo, che il ginocchio pendola, creano indubbiamente un aumento delle forze che agiscono negativamente non solo sulla cartilagine, come diceva giustamente Roberto prima, ma anche sulle strutture meniscali. Quindi sono dei suggerimenti pratici che andrebbero applicati. Alcune volte ovviamente ci sono dei lavoratori quali, poveracci, non riescono ad evitare questi accucciamenti, infatti sono quelli che poi possono andare incontro con il tempo ad una degenerazione, ad un'usura, ad un invecchiamento dei menischi. Mi chiedo una cosa, mi dica professore? No, mi chiedeva poi cosa si può fare per aiutarli. Certo. Per aiutarli, ecco, fare in modo di essere sicuri che l'allineamento, l'asse del ginocchio sia dritto, perché quando c'è un asse non dritto, il ginocchio è storto e a O o a X, questo provoca sul menisco coinvolto, interno ed esterno, un sovraccarico, quindi la possibilità che possa andare incontro ad usura, ad invecchiamento. E certo, non essere molto pesante, è un'altra cosa importante. Come poi sottolineava il professor D'Anchisio, sì, ci sono proprio delle ginocchia che sono più vulnerabili, più a rischio per la loro forma. Anche per i menischi vale il concetto della preparazione ginnica con esercizi proprio eccettivi, anche per i menischi vale lo stesso principio, perché anche i menischi, oltre che essere degli ammortizzatori, sono delle sostanze che trasmettono il controllo neuromuscolare del movimento, cioè hanno i propri eccettori, e quindi anche qui la tavoletta, il twist può funzionare bene. Professor Cerulli, grazie per essere stato con noi, le auguro grazie una buonissima giornata. Abbiamo in linea con noi Luigi dalla provincia di Pavia, Silvio dalla provincia di Como e Riccardo dalla provincia di Padova. Professor D'Anchini, intanto Luigi, buongiorno. Sì, ma scusa, volevo fare solo un aggiungere a quello che ha detto il professor Cerulli un'osservazione. Le rotture meniscali sono di due tipi. La rottura traumatica, nel senso che il ventenne che gioca a pallone fa un movimento brusco, si rompe il menisco, e le rotture di tipo degenerativo, che sono da usura nel tempo. Perché voglio evidenziare questo? Perché le traumatiche devono essere operate in artroscopia, quindi non intervento modesto, o si porta via o se si riesce si ricuciono e quindi si salva il menisco. Le lesioni degenerative, che possono comportare un dolore improvviso, l'esame che si fa di solito la risonanza magnetica evidenzia la lesione del menisco. Attenzione che queste hanno una percentuale di guarigione spontanea piuttosto alta, quindi a volte per l'ortopedico può venire voglia di dire operiamolo, perché ma c'è la sintomatologia, dite, e c'è la risonanza magnetica positiva, positiva cioè che fa vedere il danno, allora viene voglia di operarlo. Io devo dire che ottima, una buona percentuale si aspetta 3-4 mesi, fa finta di non aver male, riesce a guarire. Quindi ecco, direi leggete tra le righe, no, non neanche leggere tra le righe, ascoltate. Aspettate. E ci aspetta Luigi dalla provincia di Pavia. Buongiorno Luigi, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, complimenti per la trasmissione e saluto anche il professore. Buongiorno. Sì, grazie. Io vi parlo della mia situazione. Allora, io sarò breve e sì, chiaro. Grazie, allora, Luigi. Nel 2000 sono stato operato con artroscopia a ginocchio sinistro, sì, perché praticamente non ho avuto né colpi e purtroppo non effettuo un'attività sportiva di nessun tipo. Quindi è stato operato. Sì, ma cosa le hanno fatto? Che intervento le hanno fatto? Allora, mi hanno fatto un'artroscopia perché praticamente avevo un dolore e avevo sempre il ginocchio. Che cosa hanno trovato? Dottore, questo qua non so. Non lo questo sa. Non ok, si sa mai. Andiamo avanti. Allora, niente, praticamente mi hanno ripulito, mi hanno... l'hanno fatto nuovo. E adesso e perché ci chiama? Allora, 4 anni fa Nicoletta... No, quindi poi è stato bene. È andato bene, dottore, per un paio d'anni. Io purtroppo lavoro in un'azienda agricola, quindi sago e seto dai trattori, certo, passo vitellini, eccetera, eccetera. Allora, Nicoletta, nonché nel 2004 vado a fare ancora una visita, perché sempre il problema del gonfiore e del dolore. Sì, dolore sono gonfio. Andato, dolore gonfio. Posso dire il nome dell'ospedale? Non è importante. Non è importante. Mi dica niente, come allora, sta sono adesso. Andato, allora, niente, praticamente un secondo intervento, mi hanno sempre ripulito, sempre questa cartilagine spappolata e mi hanno fatto delle microfratture secondo Stedman. Certo. Per vedere se si poteva fare qualcosa. Ok. Niente dottore, sono andato ancora l'anno scorso e la situazione si è ripetuta. Mi hanno fatto delle infiltrazioni con l'acido ialuronico e praticamente mi hanno detto che ormai è degenerativo. Se vorrei salvarlo dovrei andare in una clinica, dicevano, per togliere il poco menisco che mi è rimasto e metterne uno e metterlo in congelatore, diciamo, e per far sì che si riproduca per poi riennettarlo dentro. Ecco dottore, io le volevo chiedere quanti anni ha, mi scusi? Io ho 36 anni. Dottore, il problema, le volevo chiedere, ha ballato poco il twist? Me la porterò per tutta la vita o perché poi adesso si è formata anche l'artrosi? Mi dica allora, senta, in sintesi, lei ha certamente un'usura della cartilagine, che vuol dire artrosi, quindi quando noi parliamo di artrosi vuol dire che la cartilagine si è consumata. Su questo, se l'artrosi è abbastanza avanzata, purtroppo non abbiamo molto da fare. Le indicazioni che le hanno dato eventualmente di trattamento con prendendo la sua cartilagine, utilizzandolo, bisogna fare attenzione perché c'è uno spazio per questo tipo di trattamenti, ma quando c'è un ginocchio per il resto in buone condizioni, altrimenti ha un'alta percentuale di fallimento. Quindi attenzione a farsi toccare e alla domanda me lo porterò dietro per tutta la vita, ai mesi. Sì, meno male però, no? Perché sì, certo, le ginocchia ci sostengono. Abbiamo sentito le ginocchia di un nostro ascoltatore che lavora molto perché ci raccontava azienda agricola, importante. Ma c'è anche un ginocchio altrettanto famoso, prima dei mercati Carmelo, lasciamela dire, veloce, il ginocchio della lavandaia, che deve la sua fortuna ad un romanzo. Ve ne facciamo ascoltare un breve estratto. Ditemi il titolo o almeno l'autore e il primo ascoltatore che ci darà la risposta esatta riceverà a casa, in collaborazione con la libreria Rizzoli.it, il romanzo che ha reso famoso questa patologia, tra virgolette, chiamiamola così. Sentitela, 800 24 00 24. Non rubo altro tempo ai mercati, ci sentiamo dopo il meteo. Esaminai coscienziosamente tutte le voci dal principio alla fine dell'alfabeto e potei concludere che la sola malattia dalla quale non ero affetto era il ginocchio della lavandaia. Mi sentii quasi offeso sulle prime. In certo qual modo mi pareva un affronto. Perché non avevo il ginocchio della lavandaia? Perché quella menomazione? Ben presto però prevalse in me uno stato d'animo meno avido. Riflettei che avevo tutti gli altri malanni noti alla scienza medica e, reprimendo l'egoismo, decisi di rassegnarmi a non avere il ginocchio della lavandaia. Essere e benessere. E siamo tornati, devo dire che arrivano già molte chiamate all'800 24 00 24 per il ginocchio della lavandaia, che esiste o no? Non dica nulla, lei. Zitto io. Faccia solo l'ortopedico. Esiste. Esiste. Sono stato sintetico. Sì, e fa ma e come viene? No, il ginocchio della lavandaia è tutto sommato una borsite. Siccome le lavandaie una volta, perché sì, oggi le signore e i signori hanno la lavatrice, sì, si stava molto in ginocchio. E se mi dilungo un attimino solo, madre natura, dove c'è un osso che sporge e c'è la pelle subito sopra, ha messo una specie di lubrificante, una specie di piccola borsa, sì, che riduce l'attrito quando ci si muove, e sono come due foglietti appiccicati, sì, che se infiammati si riempiono di liquido e quindi si ha questa specie di palla che viene al davanti del ginocchio, che è la borsite. Quindi tutte le borsiti sono così come le ho descritte, molto frequente nel ginocchio per chi sta spesso in ginocchio. Dove può venire d'altro la borsita? Al gomito, vicino all'anca, nella zona del trocantere, si chiama, dove sporge l'anca, può venire sull'alluce, quando c'è il famoso alluce, la cipolla, ecco, la cipolla è una borsite per la sporgenza dell'osso del piede. E noi abbiamo Riccardo, buongiorno, l'abbiamo fatta attendere, Riccardo, benvenuto. Sì, buongiorno a lei, al suo... Buongiorno. Sì, senta, niente... Io ho avuto un riscontro del ginocchio destro da parte della risonanza magnetica e dei raggi che ho eseguito, sì, di un'usura del menisco. Sì. Sì. In pratica l'ortopedico, che poi ho fatto vedere gli esiti, mi ha fatto un'infiltrazione di cortisone per alleviarmi un po' il dolore. Sì. Adesso ho fatto un po' di fisioterapia e diciamo che il dolore mi è passato. Chiedevo se c'era qualche rimedio opportuno da poter prevenire un'usura ulteriore del menisco, perché prometto che faccio un lavoro che lavoro ho covacciato per molto tempo. Che lavoro fa? È un negozio di giardinaggio, quindi... Okay. Lo credo. Allora, due osservazioni. Attenzione alle infiltrazioni di cortisone che ogni tanto vengono fatte, perché non sono l'ideale, possono usurare un pochino il ginocchio. Prima osservazione. Seconda osservazione, come ho detto prima, non so se ha sentito, le usure del menisco, quindi non le lesioni traumatiche, qualche volta non necessitano di un intervento chirurgico, e come nel suo caso, adesso non so se l'infiltrazione o se lei rientra nella categoria di quelli che sono guariti, diciamo che il fatto di non aver dolore è un elemento importante che, certo, ci tiene lontano dal chirurgo. Situazioni specifiche no, è chiaro che lei non può cambiare lavoro, mi pare di capire, quindi, ed è chiaro che rimanere a lungo in ginocchio su un menisco un po' consumato può essere un elemento negativo, però io sarei abbastanza fiducioso. Per quanto riguarda le infiltrazioni di acido ialuronico, attenzione che è come mettere un lubrificante nell'articolazione e non sempre danno un buon risultato, e poi si ritrova un po' nella stessa situazione rispetto alla precedente. Abbiamo Livio che ci chiama da Cuneo. Buongiorno Livio. Buongiorno a voi. Buongiorno. Buongiorno Livio. Le ginocchia stanno bene? Sì, per fortuna stanno bene, ho sentito con interesse la trasmissione, anche se... Ma lei momento... quando va al cinema, ad esempio, sì, quando si alza? È contento o sente qualche dolorino? O si alza volentieri, ecco, più che dolore? Le ginocchia buone. Sono contento. Oh, perfetto. Va bene. Allora Livio, quindi, sì, bene, e che cosa ci racconta? Quindi immagino qualcosa sul ginocchio della lavandaia. Ma sul ginocchio della lavandaia, intanto, vabbè, mi sono riferito alla coscienza di Zeno, di Italo Svevo, credo, no? Che cita questo ginocchio della lavandaia. Per il resto, il gioco della lavandaia, io a volte ho qualche disturbo e qualche problema, soprattutto, non so come mai, quando percorro dei sentieri in discesa. E questo mi crea qualche problema al ginocchio, qualche dolore al ginocchio, probabilmente un menisco o crociato. Perché, posso dire una cosa? Tanto che poi ci occupiamo di chi va in discesa e sente male, che sono tanti. E Livio non è là la coscienza di Zeno, ma ha avuto l'opportunità così di parlare con il professor D'Anchise e di capire perché ci fa male quando andiamo in discesa. Quando andiamo in discesa, perché la rotula lavora moltissimo. E allora, indipendentemente dalla patologia, qualche volta per un ginocchio non allenato una importante sollecitazione in discesa può far male. Non è né il menisco né il legamento, stia tranquillo, faccia un po' di rinforzo della muscolatura e le passerà anche questo dolore. E la rotula che sembra al femminile, è un po' una rompiscatole. Perché femminile appunto. Invece dice esattamente. Andrea, buongiorno da Roma. Buongiorno. Io aveva stimolato la mia curiosità l'intervento del professore precedentemente, che parlava dei propriocettori sul legamento crociato. Sì. Avendo subito la ricostruzione del crociato anteriore con prelievo del tendine rotuleo, mi chiedevo se su un legamento ricostruito c'erano le stesse strutture propriocettive. No, uno dei limiti della ricostruzione, se così vogliamo dire, è che non abbiamo la possibilità di far rinascere i recettori nervosi, cioè quelli che dicono alla muscolatura all'esterno: guarda che sta arrivando una sollecitazione eccessiva, quindi muscoli, fate attenzione, irrobustitevi, e lavorate di più. Lavorando di più si riduce lo stress sul legamento. Questo non lo possiamo fare nelle ricostruzioni, però le osservazioni che faceva il professor Cerulli, cioè alleniamo la nostra muscolatura a sopportare determinate sollecitazioni, quindi la propriocezione, gli esercizi propriocettivi sono esercizi molto utili, ancora di più nei pazienti operati. Mi scusi, torniamo, che ha lasciato molto incuriosito molti nostri ascoltatori su questa pedana. Allora, io suggerisco... Come sono fatte queste pedane? C'è una tavoletta e sotto un'emisfera al centro, in maniera tale che ci si trova in una situazione di alterato equilibrio. Questo va molto bene per la caviglia e per il ginocchio, anche per la caviglia è molto utile, perché stimola la muscolatura alle sollecitazioni anomale. Chi lo vuol fare bene, secondo me, dovrebbe andare a farsi spiegare, per così dire, da un terapista qual è il modo giusto per utilizzarle e poi tenerselo in casa e farlo ogni tanto. 5 minuti di fila al giorno, diceva il professor Cerulli. Bastano. Maria, buongiorno, ci chiama da Como, benvenuta. Buongiorno. Grazie. Senta, io ho una borsa sotto il ginocchio che si trasforma in cisti quando faccio dei movimenti. Dietro o davanti? Dietro, sotto il cavo... Sì, popliteo. Sì, popliteo. E ho fatto l'ecografia al ginocchio, a livello di tendini e così va bene. Però volevo sapere se questa borsa... Aspettiamo, allora... Ma non mi fa parlare sarà? Oggi. Che cosa sarà questa... pallina dietro il ginocchio? 800 24 00 24. Non è che non la faccio parlare io, è Carmelo Lauricella che è in regia, la parte tecnica, che vuole che dia in tempissimo le informazioni sul traffico. Essere e benessere. Riformulo la domanda della nostra ascoltatrice. Questa pallina che può presentarsi nella parte anteriore del ginocchio. Anche se sono offeso rispondo. Si chiama la famosa cisti di Becker, che è il chirurgo che l'ha evidenziata tra i primi, ed è una specie di borsa di cisti che molti di noi hanno nell'articolazione. Se si forma, siccome è collegata all'articolazione, se si forma del liquido all'interno dell'articolazione, questo liquido va nella cisti e la riempie, e ha un meccanismo per cui la cisti si riempie ma non si svuota, quindi rimane un po' gonfia e può dare un po' fastidio perché crea tensione. Di solito è l'espressione di un problema dell'articolazione, quindi secondo me non va trattata chirurgicamente, molto spesso con una terapia antinfiammatoria e un po' di riposo va a posto per conto proprio. Attenzione, qualche volta è necessario operarli, ma attenzione perché la percentuale di recidiva, cioè che si possa riformare, perché è difficile andare a chiudere proprio l'opercolo, la connessione con l'articolazione, le recidive sono piuttosto frequenti. Professor D'Anchise, molte persone che si sentono il ginocchio cedere un po' dolente, affaticato, mettono la ginocchiera, non solo quando fanno sport, ma anche per essere più sicuri, più... Allora, io personalmente sono abbastanza contrario. La ginocchiera può andare bene quando si hanno dei problemi specifici, in particolare quando c'è un problema della rotula per cercare che tende ad andare fuori posto. Questo è un discorso molto ampio, magari faremo anche un'altra volta. Però la ginocchiera serve a poco. Innanzitutto, se proprio vogliamo metterla, non deve essere stretta perché altrimenti blocca la circolazione. Seconda cosa, dà al paziente la sensazione di star meglio, perché non so se riesco a spiegarmi, avendo qualche cosa intorno, uno ha come la sensazione che il ginocchio esista, solitamente questa sensazione non ce l'abbiamo, e quindi fa un pochino più attenzione, però tende a diminuire il tono muscolare perché noi usiamo meno l'articolazione, e come ho detto crea dei problemi di circolazione, e da ultimo si diventa anche un pochino schiavi, nel senso che senza si fa fatica a stare. A proposito di tono muscolare, mi aiuta a rispondere a Diego che ci scrive un SMS chiedendo: in presenza di sofferenza cartilaginea è utile e opportuno aumentare la massa muscolare, quadricipite, bicipite, femorale? Allora, bisogna capire che tipo di usura cartilaginea. Se questa usura cartilaginea, che è difficile quantizzare solo con accertamenti, se non guardando dentro l'articolazione, ma comunque se il problema è prevalentemente rotuleo, molto bene, ma attenzione che il rinforzo deve essere fatto in scarico, quindi non corsa, non salti, non giocare a pallone, cioè non sono questi gli esercizi che rinforzano la muscolatura in questa situazione nella maniera corretta. Quindi diciamo palestra, rinforzo della muscolatura, ecco un elemento fondamentale. Se noi vogliamo riabilitare il nostro ginocchio, questo deve essere nella mente di tutti sempre, non deve far male. A volte ci sono dei terapisti che insistono nel recupero anche se fa male, ma questo è negativo. Quindi magari fare pochi esercizi ma frequentemente, ma non sentir male né durante né subito dopo e neanche il giorno dopo. Se il giorno dopo sentiamo che il ginocchio non è proprio lo stesso, vuol dire che abbiamo fatto troppo. Davide, buongiorno da Milano. Davide? Pronto? Sì, Davide, buongiorno. Sì, pronto, buongiorno a buongiorno. Voi. Allora, io ho un problema, nel senso, l'anno scorso ho sovraccaricato tantissimo il mio corpo, sia per il lavoro che per l'allenamento fisico. Sì. Con che attività sportiva? Sì, esatto. Con che attività? Cosa voleva diventare, Davide? Volevo avere tipo le gambe da calciatore, insomma. Sì, ma volevo dire che tipo di sport ha fatto per rinforzare. Pesi. Ok, li ho sovraccaricati. Ok, ok. E in poche parole, adesso quando faccio dei piegamenti sulle gambe, che appoggio il gluteo sul tallone, nel risalire il ginocchio destro scrocchia, ma tantissimo, fortissimo. Il gluteo. Ho paura, diciamo. Ma, sono andato a farmi vedere, sì. Sono andato a fare tutto a posto. Non risulta. Ma niente. Voglio dire, è un rumore o è anche un dolore? No, è solo un rumore, un dolore per... Come dicevo all'inizio, metta i tappi e faccia finta di niente. Il gluteo sulle ginocchia, capito? Chi è che ci arriva? No, noi ci arriviamo con Davide, voleva avere le gambe da calciatore, ma adesso ha questo dolorino, questo scrocchietto. Attenzione, che è ben diverso. Perché se avesse dolore invece... Potrebbe essere un problema rotuleo. Ecco, allora noi andiamo da Andretta, che ci chiama da Firenze. E comunque, scusa, un'ultima osservazione. Come sempre, esagerare per le nostre articolazioni non va bene. Mi riferivo all'ascoltatore di prima. Però... ragazzo giovane, perché dalla voce era molto giovane, anche per evitare l'effetto da gamba da merlo che hanno molte persone, molti uomini che vanno in palestra, non bisogna esagerare neanche all'inverso. Ecco, bisogna, allora lui avrà visto le gambe secche secche, ha detto qua, e allora via di macchine. Allora Andretta, buongiorno da Firenze. Buongiorno Andretta, buongiorno. Benvenuta. Ambretta, con la B. Ambretta. Ah, mi sembrava strano come lavoro. Ambretta, sì. Allora eccoci qua. Sì. Io ho detto tre uomini in barca. Perfetto! Brava! E tra l'altro mi ha dato tutte le risposte che avrei voluto fare le domande io su dei disturbi proprio, mi ha dato tutte le risposte. Ma perché il professor D'Anchise è bravo, io è inutile, cioè io quando viene lui dovrei stare a casa, lui si fa le domande, si dà le risposte, perfetto, va in automatico ormai. Allora Ambretta riceverà a casa in collaborazione con la Rizzoli.it il libro Tre Uomini di Jérôme, e noi andiamo l'ultimo minuto di trasmissione a Trento perché ci aspetta Silvano. Silvano, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a lei, grazie di averci chiamato, ci racconti. Grazie a voi. Allora io adesso ho 31 anni, a 17, quindi 14 anni fa, subito una doppia operazione in artroscopia per l'asportazione del menisco sia al ginocchio sinistro che al ginocchio destro. E a fianco a questo anche la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. E non mi hanno dato particolari problemi, tranne gli ultimi anni, adesso, quindi a ridosso. Nel momento in cui faccio sport, metto sotto sforzo parecchio le ginocchia, poi dopo non riesco a dormire la notte perché tenendo la gamba distesa, il ginocchio sinistro, quindi non quello operato al crociato ma solo al menisco, le dà fastidio. Abbiamo 30 secondi per... Sì, questo mi consente di dire una cosa importante. Purtroppo, no, per fortuna i menischi servono, e purtroppo quando vengono asportati nel tempo ci può essere un'usura perché non abbiamo più l'ammortizzatore e la cartilagine viene ad essere sollecitata, per cui adesso ci sono anche dei trattamenti di trapianto meniscale o comunque anche il raddrizzare la gamba, per esempio se la gamba è storta, per prevenire questa usura. Quindi attenzione, per quello che io dico, attenzione a farsi operare se non esiste la necessità, perché se ci sono servono, teniamoli, però se sono rotti qualche volta bisogna portarli via. Professor D'Anchise, grazie per essere stato con noi, grazie a voi che ci avete seguito, vi saluto, devo andare, ci sentiamo domani. Essere e benessere.